banda rossa, ho dato 7.900 MHz nella modulazione di frequenza. Allora, eccoci tornati in diretta, sono quasi le 11:15 minuti primi, dunque dovremmo essere al telefono con Giovanni, ciao. Sì, ciao, buongiorno. Ci siamo, ciao, buongiorno Giovanni. Allora, dunque, un fine settimana piuttosto caldo, quello che è trascorso a Livorno, dunque lo stavamo già anticipando qualcosa qui in studio. Giovanni, insomma, io ti lascio la parola. Abbiamo così detto già alcune cose in merito alle cariche di venerdì e di sabato, anche rispetto alla risposta poi che c'è stata domenica, ma è bene che magari sia tu a ricostruire un po' il tutto, magari offrendoci anche qualche elemento così di analisi anche su quello che è successo. Sì, no, cercherò di essere più preciso e veloce possibile. Noi venerdì sera abbiamo deciso di costruire, insomma, di fare una contestazione durante il comizio conclusivo delle primarie, della campagna elettorale per le primarie di Bersani. C'erano, a dir la verità, erano due o tre le contestazioni, anche lì noi non ci vediamo nulla di strano, insomma, e sono cose che succedono e sono cose giuste che comunque in queste occasioni sono cose che ci possono stare, insomma. Quindi eravamo noi dell'ex caserma occupata come disoccupati, precari e sfrattati. Poi c'era un presidio di alcuni operai e operai di un'azienda ospedaliera di Pisa che erano stati licenziati, e poi si erano aggiunti anche dei solidali al movimento NoTab, perché come sapete il giorno prima erano partiti numerosi arresti e perquisizioni, quindi noi ci siamo presentati alla stazione marittima per fare questa contestazione, che comunque è giusto precisare che era una contestazione comunque totalmente pacifica, perché ci siamo presentati lì davanti come avevamo già fatto qualche settimana prima quando era venuto Renzi, e a differenza appunto del trattamento, fra virgolette, che abbiamo ricevuto per Renzi, ci siamo resi conto subito che la situazione era cambiata, insomma c'era la cellula schierata, carabinieri, e nel momento in cui ci siamo mossi, comunque tutti a volto scoperto in maniera abbastanza tranquilla, ci siamo mossi verso l'ingresso, siamo stati caricati subito dai carabinieri. La prima carica è stata abbastanza leggera, poi ne sono seguite altre due, di cui l'ultima, carabinieri, polizia e cellule insieme, e lì insomma è stata abbastanza pesante, ci sono stati comunque alcuni contusi, alcuni feriti, e niente, comunque la situazione dal nostro punto di vista è sempre rimasta abbastanza tranquilla, insomma avevo protestato per quello che era successo, però niente di che, e ci siamo dati appuntamento il giorno dopo comunque alle 5 in una piazza centrale di Livorno per comunque protestare e far vedere insomma quello che era successo il giorno prima, che per chi giustamente Livorno non la conosce, insomma, noi è difficile, no, che durante delle manifestazioni di piazza ci siano problemi o di questo tipo, insomma era una delle prime volte che succedeva che venissimo caricati a freddo in questa maniera. Poi è chiaro, situazioni di conflittualità ci sono sempre state, ma diciamo di altro genere. Quando eravamo in piazza, quindi questo sto parlando di sabato, siamo stati subito minacciati in maniera abbastanza pesante, però anche lì noi comunque non ci siamo fatti spaventare, abbiamo deciso di continuare a fare questo piccolo corteo non autorizzato, fra le altre cose in delle vie chiuse al traffico, quindi quando ci accusano di aver bloccato il traffico, comunque di aver creato dei problemi di ordine pubblico, è chiaramente una falsità. Arrivati verso le 7 di sera in una delle piazze più centrali di Livorno, piazza Cavour, incomprensibilmente dal nostro punto di vista si è presentato questo reparto di celere a corteo praticamente concluso, e quando i partecipanti si trovavano insomma a discutere alla fine del corteo in una zona pedonale, è arrivato questo reparto di celere, e qui è successo diciamo quello che per noi è la cosa un po' più grave, la cosa che abbiamo deciso di non accettare, abbiamo deciso di insomma di non stare zitti di fronte a questo atto, che a questa situazione che si era creata sabato, perché lì si è schierato un reparto di celere, dopo pochissimi minuti siamo stati caricati a freddo, però stavolta in una maniera molto più pesante, come purtroppo comunque siamo più che abituati a conoscere, insomma, situazioni di questo tipo, quindi lasciare partita in 5 su una persona. Cioè, c'era un nostro compagno che sua mamma per esempio passava di lì per caso, ha visto questa scena, ha cercato di difendere il figlio, è stata picchiata anche lei, è andata all'ospedale, ci sono stati capannelli sopra le persone, cariche abbastanza pesanti. E lì la piazza ha reagito, tutti, commercianti, passanti, perché era una piazza molto affollata, veramente una scena mai vista a Livorno e una scena allucinante. È stato una roba che appunto noi non comprendiamo, e comunque per questo motivo dalla sera, diciamo, di sabato è partito questo tantam su internet. Grazie comunque anche ai social network, grazie ai video che comunque la gente aveva subito condiviso, e per tutta la notte, insomma, si è sparsa la voce a Livorno. E il giorno dopo c'è stato quest'altro corteo che è partito appunto dalle 5 sempre in Piazza Cavour, perché per noi era importante che in quella giornata venisse fuori chiaramente in maniera determinata che noi scendiamo in piazza, facciamo i nostri cortei, e non esiste che succedano cose come quelle di sabato, che siano autorizzati o che non siano autorizzati. Cioè, se non sono autorizzati siamo tutti responsabili, se hanno intenzione di denunciarci per manifestazione non autorizzata, quelli sono affari loro, però che si impedisca fisicamente, quindi si mandi la gente all'ospedale per un corteo non autorizzato, questa è una cosa che noi abbiamo chiesto anche le dimissioni del questore, perché per noi è una condizione su cui non si tratta. Per niente, impossibile, perché no, non abbiamo intenzione assolutamente di cedere su questo punto. E il corteo di domenica, in risposta a questi due giorni di carica, è stato un corteo straordinario. Era tanto tempo che a Livorno non si vedeva una cosa del genere. Il corteo si è ingrossato sempre di più, è partito con qualche centinaia di persone, è arrivato a più di un migliaio, e se si pensa che era un corteo, insomma, che è stato convocato neanche in 24 ore. Continuava ad arrivare gente, soprattutto tanti ragazzini. Questa è stata una risposta molto, molto bella anche da parte della città, e comunque fa notare, insomma, che c'è anche una situazione piuttosto esplosiva, no? da questo punto di vista. Il corteo si è diretto davanti alla questura, perché era uno dei, per noi e per tutti, era comunque il modo per far vedere che rispondevamo a quello che era successo il giorno prima. Siamo andati davanti alla questura, abbiamo chiesto pubblicamente le dimissioni del questore, e poi ci siamo spostati verso la prefettura, perché la prefettura, diciamo, in linea d'aria è la maniera per proseguire comunque il corteo. L'idea era quella di ritornare un'altra volta in città. E lì davanti alla prefettura sono successe delle cose un po' particolari, perché è giusto anche dire che noi a nostro avviso quel giorno la polizia e la celere probabilmente sarebbe stato meglio se non si fosse neanche fatta vedere. Invece davanti alla prefettura abbiamo trovato un cancello aperto, c'erano dei cellerini dietro, e lì la situazione è diventata totalmente incontrollabile, perché per molti è sembrata comunque una forma di provocazione anche continuare a farsi vedere nonostante quello che era successo il giorno prima. Noi abbiamo fatto anche il possibile, fra le altre cose, per cercare di mantenere la situazione tranquilla, ma chiaramente la piazza ha risposto in maniera spontanea e molto determinata e rabbiosa. Cioè, quello che è successo poi, insomma, le immagini ci sono. Noi abbiamo, ripeto, cercato anche di mantenere la situazione tranquilla, ma è chiaro che in un momento come quello la piazza diventa totalmente incontrollabile. Quindi c'è stato questa specie di assalto, che poi, insomma, andrebbe discusso anche su questo punto, perché, insomma, c'erano delle transenne lì davanti, le persone le transenne, sono state lanciate delle bombe carta, e quando poi la situazione è tornata tranquilla il corteo ha proseguito, e questa è un'altra cosa che è giusto sottolineare, ha proseguito nelle stesse dimensioni di cui era partito. Cioè, chi parla di dissociazioni del gesto, cioè, o non c'era o è malafede, perché il corteo si è rivendicato comunque tutto e ha continuato nelle stesse dimensioni fino alla fine. Quindi niente, la situazione a Livorno ora è questa. Cioè, non, chiaramente nessuno si aspetta che non ci siano delle risposte repressive, però noi comunque l'abbiamo scritto anche sui giornali locali, abbiamo detto che noi comunque no, come struttura non ci dissociamo da quello che è successo. Noi come militanti e compagni e compagne eravamo comunque in piazza tutti a volto scoperto, abbiamo cercato di gestire la situazione in maniera più responsabile possibile, però non siamo direttamente coinvolti, ma è chiaro che non ci dissociamo da quello che è successo, insomma. È stata, come hai ribadito tu, insomma, una risposta, ma lo si è visto, insomma, abbastanza di pancia, certamente non si può dire preventivata, altrettanto certamente però si può dire che sia stata espressione di un malcontento sociale che, insomma, si innesta sulla convinzione di essere stati calpestati poi nei giorni precedenti, no? Che sono due fattori che, uniti, magari diventano poi esplosivi e determinano quello che è successo. Peraltro immagino, no, che negli ultimi periodi la situazione sia diventata più difficile anche da voi, su tanti piani, a cominciare dalla situazione degli affitti, degli sfratti, della disoccupazione e della politica che si fa sempre più distante. Insomma, sono tutti elementi che concorrono a determinare una situazione, no? Sì, certo, questo è l'analisi che poi va fatta comunque a freddo, perché è chiaro che Livorno in questo momento sta vivendo una situazione di disagio da sotto tutti i punti di vista, che è a nostro avviso di gran lunga superiore anche a altre città della Toscana. Cioè, noi abbiamo, la nostra città è in crisi da diversi anni, cioè c'è stato un tracollo negli ultimi 10 anni dal punto di vista del reddito, del lavoro, del diritto alla casa. È chiaramente, noi queste cose ce le abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, e c'è sicuramente questo disagio. E poi noi come gruppo abbiamo anche cercato di portare allo scoperto tutte queste situazioni, però nonostante questo, chiaramente il potere locale, ricordo, insomma, è il Partito Democratico, che sotto varie forme, comunque dal Partito Comunista in poi, sono 70 anni che governa questa città. Chiaramente ha fatto muro, e non con una certa arroganza anche, oltretutto, e come poi succede, penso, comunque in qualsiasi parte d'Italia. Ed è chiaro che la situazione sta cambiando, perché di fronte a una disoccupazione giovanile che è la più alta del centro-nord, e c'è una proporzione di sfratti, no, in proporzione alla popolazione, che è altissima. La situazione non è più controllabile, è chiaro che la gente la gente è incazzata, e noi dal nostro punto di vista stiamo cercando comunque, no, di organizzare e di cercare di portare avanti politicamente queste istanze. Se poi, oltretutto, pensano di rispondere invece che politicamente, pensano di iniziare a mandarci la polizia in piazza tutte le volte, noi abbiamo detto, e non c'è problemi, noi ora tra poco rifaremo un altro corteo, si deciderà se sarà autorizzato o non autorizzato, se hanno intenzione di caricarci un'altra volta, e ci sarà un'altra volta una risposta. E d'altronde, di pensare di rispondere a questi problemi mandando sempre la celere, non so se è una via perdente o una via vincente, però è chiaro che la nostra agibilità politica in città non si mette in discussione. Perché questa è una cosa che deve essere chiara, specie in un momento di crisi come questo. Cioè, o si decidono ad ascoltare e quindi a cambiare qualcosa, a cedere qualcosa, o se no, con un questore poi come questo, che è una persona probabilmente mandata qui apposta, insomma, sapete come funziona, cioè le situazioni di tensione sicuramente non andranno a calmarsi se non si trova, insomma, una quadra rispetto a queste situazioni che stanno succedendo. Se infatti, ecco, noi proprio prima di collegarci con te, infatti, abbiamo anche ricordato questa presenza che da subito si è dimostrata così abbastanza fastidiosa, no? Quella di Cardona, ed è un po' questo un fattore, per così dire, di così destabilizzazione magari di alcuni equilibri su come si conducono e come si svolgono anche le operazioni diciamo, di ordine pubblico nelle nostre città, che si replica, perché a Milano ad esempio è successo uguale, no? Con il questore Savina la situazione è un po' precipitata, e qui a Livorno praticamente uguale. E, singolare, ecco, anche stata la risposta del sindaco, no? Interpellato in proposito, che ha proprio detto, e lo avete anche stigmatizzato voi, questi ragazzi adesso si sono messi in testa, hanno passato il segno, perché non possono, hanno voglia di incidere e non possono farlo, sì. Sostanzialmente. Ma guarda che lui è stato, mi sembra, piuttosto chiaro, cioè lui ha detto va bene, noi eravamo tollerati finché sì, protestavamo, insomma, hai visto, tanto loro gli va bene così, insomma, che ci sia un minimo di protesta, insomma, li fa sentire ancora di sinistra, no, a questi del Partito Democratico. Però è chiaro che l'obiettivo non è quello di protestare per il fine di protestare, cioè l'obiettivo dei nostri comitati, che comunque sono strutturati, comitato per la casa, comitato disoccupati e precari, comitato contro le nocività, cioè sono obiettivi chiaramente di incidere su quello che sta succedendo in questo momento, e quali strumenti abbiamo noi a disposizione per poterlo fare, non certo quello di fare, almeno per noi, di fare un partito, una lista, presentarsi alle elezioni, insomma sono tutte cose che non ci interessano, cioè noi portiamo avanti una battaglia politica comunque auto-organizzata dal basso, e questo dà fastidio, sta cominciando a dare fastidio, perché è chiaro che da una parte la situazione sta peggiorando e quindi gli sfugge completamente di mano, visto che finora sono stati abituati a pensare comunque solo ai loro interessi, ai loro privilegi, cosa che comunque continueranno a fare lo stesso, e dall'altra è chiaro che le stanze politiche cominciano a essere sempre più forti, quindi sono d'accordo, cioè il sindaco l'ha detto chiaramente, e non è un caso che la questura, secondo noi anche di concerto appunto col potere locale, abbia voluto in questo caso testare quanto poteva spingersi anche dal punto di vista repressivo. Se questa fosse effettivamente una tesi, una giusta tesi, insomma la risposta non è stata da poco, quindi diciamo possiamo tranquillamente dichiarare che a nostro avviso pensare di risolvere e di rispondere alle istanze comunque dei livornesi e delle livornesi, pensando appunto di mandare la celere in piazza o comunque di utilizzare la repressione, è una via che comunque è sbagliata e perdente, perché rischia di ottenere proprio il contrario. Senti, vabbè, chiaramente quasi inutile star lì a considerare, perché insomma le pesiamo per quello che valgono, insomma le ricostruzioni offerte dai principali media, soprattutto poi quelli locali, poi si sbizzarriscono in questi casi e si inventano di sana pianta le situazioni. C'è chi ha parlato di molotov lanciate contro la prefettura, no? Assolutamente, anzi è stato divertente, perché per i primi due giorni hanno detto che erano insomma bombe carta, lampirogeni, insomma queste cose qui. Poi dopo due giorni hanno cambiato lo stesso articolo mettendoci molotov e bastoni infuocati, che nessuno sa anche fra l'altro cosa sono questi bastoni infuocati, perché è proprio una cosa quasi ridicola, cioè è chiaro che questi per fare notizia hanno accentuato la cosa, cioè si parla già del reato di devastazione e saccheggio, è bene mettere subito in chiaro che ci sono anche dei video, fra le altre cose, che la roba è durata qualche minuto e non ha interessato l'interno della prefettura, ma ha interessato solamente il cancello di fronte. Erano state lasciate delle transenne di fronte alla prefettura, anche quello non ci chiediamo come mai, cioè non è una questione di malafede, però a volte fanno i cortei e appunto vanno a saldare i tombini per paura di tensioni, cioè lì l'unica cosa che c'era davanti alla prefettura erano 10 transenne lasciate lì. Comunque noi pensiamo che la cosa si sarebbe comunque potuta risolvere dal loro punto di vista se si fossero chiusi dentro, e chiaramente un corteo, per quanto incazzato, per quanto rabbioso, di fronte a un cancello di 2 metri e un muro non è che avrebbe potuto fare, diciamo, no, più di tanto, cioè la volontà e secondo noi anche appunto la gestione sbagliata dell'ordine pubblico sta anche si è vista anche domenica, perché questi comunque vada di fronte a un corteo di quel tipo sono rimasti lì davanti con il cancello aperto, con poliziotti con gli scudi e manganelli, ed è chiaro che la situazione è sfuggita di mano. Però ripeto, bisogna comunque anche riguardare le cose come stanno, perché appunto siccome si sta già cominciando a parlare di reati molto gravi, è bene ricordare insomma che la situazione nonostante tutto è rimasta abbastanza tranquilla. Cioè se i video si vede comunque un lancio di lamperogeni, qualche bomba carta e un po' di transenne lanciate, cioè la porta principale della prefettura comunque non è stata toccata, nessuno è entrato dentro, e quindi insomma questo è quanto. Bisogna anche cominciare a lavorare su questo punto comunque. Insomma probabilmente infatti non si faranno poi attendere, no? Però ecco, anche la presenza al corteo e la prontezza con cui sono stati stesi redatti i comunicati, anche da più comunicati insomma da parte di diverse realtà, lascia intravedere comunque una così possibilità di gestire a livello collettivo questa cosa nel miglior modo possibile, non facendo mancare chiaramente il sostegno a nessuno, e questo è l'importante, perché quando si marcia uniti insomma le cose buone poi si riescono a fare. Sicuramente. E va bene, non dimentichiamo poi ecco che nei giorni precedenti davvero le persone si sono fatte male, anzi magari Giovanni facci sapere come ultima cosa insomma come stanno le persone contuse e ferite per le cariche di venerdì e di sabato, perché non lo dimentichiamo mai e lo ricordiamo in chiusura insomma che comunque in quei giorni a Livorno insomma evidentemente è stato deciso di dare una così di mostrare i muscoli e in modo energico far vedere la prepotenza insomma del manganello. Molte sono le persone che sono rimaste ferite, per cui ecco questa è la situazione. No, perché bisogna anche perché far puntualizzare che la miccia è partita da lì, no? No, certo, fra le altre cose appunto questo, noi stiamo scrivendo un dossier su quello che è successo i primi due giorni, stiamo raccogliendo delle testimonianze, perché è chiaro che ora noi è facile, no? Poi a posteriori fare gli inquisitori, quindi criticare, giustamente portare avanti delle critiche su quello che è successo domenica, però non bisogna comunque mai dimenticarci che quello che è successo domenica appunto è la reazione popolare e spontanea anche di quello che è successo, soprattutto di quello che è successo i giorni prima, quando appunto ci sono state soprattutto sabato delle cariche veramente pesanti. Ora noi ti dico, c'è la mamma di questo ragazzo che è stata all'ospedale subito e ora comunque sta bene, ci sono un altro ragazzino minorenne che anche lui è stato all'ospedale, ha ricevuto dei punti in testa, e poi ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che magari per un motivo o per un altro insomma non sono andate a farsi riflettere o l'hanno fatto in altre maniere, però è chiaro che tra venerdì e sabato si sta parlando almeno di una quindicina ventina di feriti a vario titolo, e che comunque come dicevi giustamente tu, quel giorno hanno provato a far vedere che comunque non si doveva scherzare, che avrebbero utilizzato la forza anche diciamo appunto della polizia per dare una lezione. Io ti posso dire che tutte queste persone che hanno ricevuto manganellate comunque sono tutte persone che per certi versi, a parte quelle che non conosciamo, perché ci sono tutte persone che non si sono fatte intimidire e che nonostante le botte che hanno preso insomma hanno deciso di continuare ad andare avanti. Noi abbiamo lanciato un appello ai livornesi di aiutarci a trovare delle testimonianze sia video che audio di quello che è successo sabato in Piazza Cavour. Noi abbiamo già pubblicato su YouTube 3-4 video di interviste a delle persone, fra cui anche un edicolante che era lì in piazza a lavorare, perché abbiamo intenzione appunto di far uscire bene quello che è successo venerdì e sabato, quindi chi ci può aiutare insomma in questo senso sarebbe importante, perché ripeto, come giustamente dicevi, quello che è successo domenica non va visto assolutamente slegato da quello che è successo venerdì e sabato, anzi alla reazione successiva. Va bene Giovanni, allora noi ci risentiamo sicuramente più avanti e, e vediamo un po' quello che, come si mette la situazione, ma magari anche seguendo la vostra attività sociale, insomma, che è quella soprattutto su cui no c'è più fermento. Sì, no, noi chiaramente noi non abbiamo cambiato una virgola di quello che stiamo facendo, anzi noi stiamo cercando, avevamo già messo in cantiere e lo faremo un piccolo corteo sotto le feste con alcuni lavoratori di fabbriche qui in crisi qui a Livorno, con disoccupati, precari. Chiaramente noi andiamo avanti con la nostra attività politica senza cambiare una virgola, insomma. Quello per forza. Dai, a presto. Grazie mille. Ciao.